E voi perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Dio infatti ha comandato così: onora il padre e la madre. E ancora, chi maledice? Padre o madre, sia punito con la morte. Voi invece dite: chiunque dice al padre o alla madre. Tutto ciò con cui potrei sostenerti è stato offerto a Dio, egli non è più obbligato a onorare suo padre e sua madre. Così facendo, voi avete annullato il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione. Ipocriti, ben profetizzò di voi Isaia quando disse: questo popolo si accosta a me con la bocca e mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me, e invano mi rendono un culto, insegnando dottrine che sono comandamenti di uomini. La sacra tradizione e la sacra scrittura scaturiscono dalla stessa divina sorgente. Accade così che la Chiesa, alla quale è affidata la trasmissione e l'interpretazione della rivelazione, attinga la sua certezza su tutte le cose rivelate non dalla sola sacra scrittura. 80-82. L'atteggiamento che il cattolicesimo tiene riguardo alla tradizione e la differenza di fondo esistente fra gli evangelici e il cattolicesimo romano. Gli evangelici concordano con la Chiesa dei primi secoli dell'epoca cristiana, riconoscendo alle sacre scritture dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento l'autorità suprema in tutte le questioni di fede. In questo modo essi interpretano la Bibbia per mezzo della Bibbia stessa. Il cattolicesimo, basandosi sulle decisioni del Concilio di Trento, 1545-1565, accetta come fonte autorevole, oltre la Bibbia, la tradizione della Chiesa. Quindi, esso non interpreta la Bibbia per mezzo della Bibbia, ma la legge alla luce della tradizione. Possiamo veramente dire che non ci sia nulla di nuovo sotto il sole. Come gli ebrei avevano tradizioni millenarie e mediante quelle annullavano la parola di Dio, anche il cattolicesimo si serve per conoscere la volontà di Dio, non solo della scrittura, ma anche delle proprie tradizioni, consolidate nei secoli, che invalidano ed aboliscono la parola di Dio. Passeranno i secoli, ma rimarranno sempre ferme le parole di Paolo. Se qualcuno insegna una dottrina diversa, e non s'attiene alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e alla dottrina che è secondo pietà, esso è gonfio e non sa nulla. 1 Timoteo 6:3. Non vi è dunque sapienza, certezza e verità al di fuori delle sane parole di Gesù. B. Giovanni 16:13. L'interpretazione scritturale. Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. L'ufficio di interpretare autenticamente la parola di Dio scritta o trasmessa è stato affidato al solo magistero vivente della Chiesa, la cui autorità è esercitata nel nome di Gesù Cristo, cioè ai vescovi in comunione con il successore di Pietro, il vescovo. Questo magistero però non è al di sopra della parola di Dio. La serve, insegnando ciò che è stato trasmesso. 85-86. E, molto bella l'affermazione che il magistero non è al di sopra della parola di Dio, ma ciò comporta che esso non debba enunciare concetti contrari a questa. E, altrettanto retta l'affermazione che lo Spirito Santo sia l'interprete della Scrittura, e che la parola di Dio debba essere letta e interpretata con l'aiuto dello stesso Spirito mediante il quale è stata scritta. 111. Dunque, ogni credente che ha lo Spirito può essere guidato ad una corretta interpretazione, ma il credente è sempre un uomo e può sbagliare, si afferma. È vero, ma anche la religione cattolica, come ha dimostrato la storia, può sbagliare. Chi è l'arbitro per questo problema? Rimane sempre la parola di Dio. Basta conoscere ciò che gli apostoli hanno insegnato per verificare l'esattezza e la validità della nostra fede. La parola di Dio è la verità. Essa non sbaglia. Tutti, credenti singoli e varie chiese, possono sbagliare nell'interpretarla. Non ci rimane che confessare umilmente che tutti cerchiamo di essere coerenti alla verità. Ecco la ragione per la quale diffido della religione cattolica. Perché essa stabilisce che l'interpretazione autentica sia affidata al solo magistero. C. Galati 1, 2, 2 Corinzi 8, 1, Apocalisse 1, 4. L'unica vera Chiesa. Paolo, apostolo non da parte di uomini né per mezzo di un uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti, e tutti i fratelli che sono con me, alle Chiese della Galazia. L'unica Chiesa di Cristo sussiste nella Chiesa Cattolica, governata dal successore di Pietro. Al tempo degli Apostoli vi erano varie chiese, nella Galazia, nella Macedonia, nell'Asia. Ogni chiesa aveva i suoi anziani, ed era già autonoma quando Roma non era ancora nulla, nel senso spirituale. Il capo di queste chiese che formano la Chiesa di Cristo è sempre stato Gesù, come del resto riconosce anche il Catechismo stesso, 792. Nessuno che legga la Bibbia, libero da preconcetti, conclude che l'unica vera Chiesa sia quella governata dal successore di Pietro. Di Romani 3, 9, 12, 5, 12, Ecclesiaste 7, 20 Maria, l'Immacolata Concezione. Che dunque? Abbiamo noi qualche superiorità? Niente affatto. Abbiamo infatti dimostrato precedentemente che tanto giudei che greci sono tutti sotto peccato, come sta scritto, non chi. E alcun giusto neppure uno. Non ci è alcuno che abbia intendimento, non ci è alcuno che ricerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti sono divenuti inutili. Non ci è alcuno che faccia il bene, neppure uno. Nel corso dei secoli la Chiesa ha preso coscienza che Maria, colmata di grazia da Dio, era stata redenta fin dal suo concepimento. Questo è quanto afferma il dogma dell'Immacolata Concezione, proclamato da Papa Pio IX nel 1854, 491. La scrittura afferma categoricamente e senza ombra di dubbio che tutti gli esseri umani sono peccatori, sia perché peccano, sia perché nascono da una razza peccatrice, corrotta in Adamo. Mi trovo veramente confuso quando il cattolicesimo stabilisce che Maria sia nata senza peccato. Parlando con un teologo di questo, gli ho fatto notare che il miracolo dell'Immacolata Concezione risulterebbe più grande del concepimento di Cristo, perché Gesù è stato concepito dallo Spirito Santo, mentre Maria da due esseri umani peccatori. Possono due peccatori concepire una persona senza peccato? Il teologo rimase imbarazzato. Inoltre, ed è bene ricordarlo, la storia dimostra che le figure principali della tradizione, come per esempio Agostino e Tommaso d'Aquino, non solo non sostenevano questa dottrina, ma addirittura la sconfessavano pubblicamente. Che Maria fosse una donna come tutte le altre lo conferma Luca 2,24, quando ci ricorda che essa, dopo la nascita di Gesù, andò a offrire dei sacrifici, come tutte le partorienti ebree, per la sua impurità, Levitico 12, 1,8. Che poi Maria sia stata chiamata beata fra le donne dall'angelo non stupisce, perché anche nel libro dei Giudici 5,24 una donna pagana, Jael, moglie di Eber, ebbe questa lode. E Genesi 3,1. La progenie della donna. Iave disse, io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Chi non ha mai notato una raffigurazione di Maria, la madre di Gesù, che schiaccia il capo ad un serpente? Queste raffigurazioni sono il risultato di un'interpretazione errata di questa profezia. Ma, osservando la sola regola grammaticale, nessuno arriva alla conclusione che la progenie sia una donna. In questa prima promessa Yahatihas ha profetizzato che la progenie della donna, e non una donna, avrebbe schiacciato il capo al serpente. Senza ombra di dubbio, questa progenie è Gesù. Gesù ha vinto il maligno, ma è stato ferito al calcagno, cioè ha gustato la morte. F. Giovanni 1, 12, 13, 3, 5. Come diventare figlio di Dio. Egli, Gesù Cristo, era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non lo ha conosciuto. E, venuto in casa sua, i suoi non l'hanno ricevuto, ma tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli, cioè, che credono nel suo nome. I quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Poiché nascono con una natura umana decaduta e contaminata dal peccato originale, anche i bambini hanno bisogno della nuova nascita nel battesimo, 1250. Il Signore stesso afferma che il battesimo è necessario per la salvezza, citando Giovanni 3,5. La Chiesa non riconosce altro rimango sempre più stupito a notare come la religione cattolica romana possa, dopo millenni, enunciare dogmi così contrari alla parola di Dio. In tutta la scrittura non c'è, è un solo comandamento, di battezzare i neonati perché siano salvati. Possibile che Dio non si sia preoccupato di insegnare questa verità, se essa è così vitale per l'uomo? Anzi, la parola di Dio afferma ripetutamente ed in modo inequivocabile la necessità di ravvedersi e di credere per essere salvati. E chi può credere se non una persona adulta? Riguardo al nascere di nuovo tramite l'acqua, come afferma Gesù, nel Vangelo di Giovanni al capitolo 3, il riferimento è alla scrittura Efesini 5:26, ed è solo in quel momento che la persona è battezzata in Cristo, Romani 6. È con questo battesimo che la persona s'assicura l'ingresso nella beatitudine eterna, diversamente l'acqua avrebbe un potere di salvezza. Sarebbe un sacramento dispensatore della grazia divina, simile al potere del fiume Gange in India. G. Matteo 16:19, i poteri di Pietro. Gesù disse a Pietro, «Io ti darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli». Il potere delle chiavi designa l'autorità per governare la... Il potere di legare o sciogliere indica l'autorità di assolvere dei peccati. 553. Che l'autorità di perdonare i peccati appartenga solo a Dio lo abbiamo già esaminato. Il potere delle chiavi è stato interpretato in modo vizioso. Innanzitutto Gesù non parlò di potere, ma si rivolse a Pietro con le seguenti parole. «Io ti darò le chiavi del regno dei cieli». Cioè tu sarai colui che aprirà le porte. Con questo Gesù voleva significare che Pietro sarebbe stato il primo ad annunziare l'Evangelo, sia ai giudei sia ai gentili. E questo è descritto in Atti, ai capitoli 2 e 10, proprio perché Pietro non aveva nessun potere o autorità sui credenti, gli ebrei convertiti ebbero il coraggio di contestare il suo operato. Atti 11, 2. H. 1, T. 3, 2 a 4, 4, 3. Tito 1, 5 a 6, il matrimonio dei vescovi. Questa parola è sicura. Se uno desidera l'ufficio di vescovo, desidera un buon lavoro. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, assennato, prudente, ospitale, atto ad insegnare. Lo stato normale dell'uomo è quello di essere coniugato. Genesi 2, 1 e 1 Corinzi 7, 2. Poiché il celibato è un dono che Dio non ha dato a tutti. Matteo 19, 11-13. Pietro stesso era sposato. Che Pietro fosse sposato, che gli apostoli avessero famiglia, era una situazione del tutto normale anche al tempo di Gesù. Infatti, molti fra i più grandi uomini di Dio lo erano, Abramo, Mosè, Isaia, eccetera. Paolo riconosce che il celibato imposto sia dal diavolo, mentre del vescovo afferma che occorra che questo sia marito di una sola moglie e governi bene la propria famiglia. Per guidare spiritualmente e praticamente delle persone, necessitano esperienze di conduzione, e chi meglio di un marito e padre ne ha? Lo stesso Paolo, quando scrive a Timoteo, non scoraggia chi desidera l'ufficio di vescovo, cioè di conduttore, ma pone come condizione che egli sappia governare la propria famiglia e tenga i figli in sottomissione con ogni decoro. Poi aggiunge, ma se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? 1 Timoteo 3, 4 a 5. Questo è un principio estremamente importante, che non ha avuto il rilievo che merita. Chiunque sia incapace di governare i suoi figli non è adatto al governo della Chiesa. I Matteo 23, 8, 12, Giovanni 17, 11, il Padre spirituale. Gesù disse, «Non chiamate nessuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il padre vostro, quello che è nei cieli». L'affermazione di Gesù non ha avuto l'attenzione che merita. Gesù si rivolge a coloro che siedono sulla cattedra di Mosè, cioè coloro che hanno l'autorità di parlare della legge di Dio. Egli sta mettendo in guardia i suoi discepoli dall'innalzare queste persone. I figli di Dio devono avere un solo maestro e una sola guida, Gesù, ed un solo padre, colui che è nei cieli. Quando Gesù ordina ai suoi di non chiamare nessuno padre sulla terra, è evidente che il riferimento sia nell'ambito spirituale. Cosa possiamo pensare del cattolicesimo che chiama padri i preti e il Papa addirittura Santo Padre o Sua Santità? Ma si avvererà ciò che Gesù sentenziò subito dopo. Chiunque si innalzerà sarà abbassato. Matteo 12, 31, 32, Ebrei 9, 27, Giovanni 3, 18, il Purgatorio. Chi crede in Lui Gesù non è giudicato, chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'Unigenito Figlio di Dio. Coloro che muoiono nella grazia e nell'amicizia con Dio ma sono imperfettamente purificati sebbene siano certi della loro salvezza eterna, sono però sottoposti dopo la morte a una purificazione al fine di ottenere la santità necessaria. La Chiesa chiama purgatorio questa purificazione degli eletti, che è tutt'altra cosa del castigo dei dannati. La Chiesa ha formulato la dottrina della fede relativa al purgatorio, soprattutto nei concili di Firenze e di Trento. La tradizione della Chiesa, rifacendosi a certi passi della Scrittura, parla di un fuoco purificatore. Per quanto riguarda alcune colpe leggere, si deve credere che c'è, è prima del giudizio un fuoco purificatore. Infatti colui che è la verità afferma che, se qualcuno pronuncia una bestemmia contro lo Spirito Santo, non gli sarà perdonata né in questo secolo né in quello futuro. Matteo, mezzogiorno e 31. Da questa dichiarazione si deduce che certe colpe possono essere rimesse in questo secolo, ma certe altre nel secolo futuro, 1030 e 1031. Ancora una volta, il Catechismo afferma: la Chiesa ha formulato, la Chiesa chiama. La tradizione della Chiesa non poteva esprimersi altrimenti. Formulare la dottrina del purgatorio, infatti, non sarebbe possibile basandosi unicamente sulla parola di Dio, cosa invece che il cattolicesimo vanta sconsideratamente ed incoerentemente di fare, affermando di proporre verità contenute nella rivelazione divina. 88. Il commento che il Catechismo riporta in riferimento al versetto di Matteo sbaglia almeno per due motivi. Il primo è che dalla Bibbia non vi sia alcun accenno che, dopo la morte, restino ancora colpe da espiare, come afferma il testo di Ebrei. Anzi, la parola di Dio afferma instancabilmente che il giudizio avviene su questa terra, come asserisce Giovanni. Non si può costruire un articolo di fede così serio deducendolo da ciò che un'affermazione non sostenga. Con questo atteggiamento possiamo definire vero ciò che vogliamo. Gesù ha parlato sempre chiaro. Ci sono solo due vie e due luoghi dove gli uomini andranno dopo la morte. Ancora una volta constatiamo che il cattolicesimo insegni dottrine che sono precetti d'uomini. Matteo 15, 9. E che in quanto tali furono di scandalo a Gesù, Matteo 16 e 23. M. Marco 3, 31, 35, 6, 3, Matteo 13, 52, 58, 1, 9, 5, Galati 1 e 19, Luca 2, 6, la verginità di Maria. Non è questo il figlio del falegname? Sua madre non si chiama Maria e i suoi fratelli, Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non sono tutte tra di noi? L'approfondimento della fede nella maternità verginale ha condotto la Chiesa a confessare la verginità reale e perpetua di Maria. 499. Gesù è l'unico figlio di Maria. La religione cattolica continua a sostenere che coloro che nella Scrittura sono definiti i fratelli di Gesù fossero in realtà solo suoi parenti. Prendiamo quindi in esame la Scrittura. L'Evangelista Marco afferma che Maria e i suoi fratelli volevano vedere Gesù, dopo aver fatto notare che i suoi parenti pensavano che fosse matto. Queste persone non potevano essere cugini, come sostiene il cattolicesimo, altrimenti la risposta di Gesù sarebbe stata questa: chiunque fa la volontà di Dio mi è cugino e non fratello. Che i suoi fratelli non credessero in lui lo riconosce anche Giovanni. 7:2-10. Matteo, dopo aver elencato i nomi dei fratelli e delle sorelle, narra che Gesù disse: «Un profeta non è disprezzato che nella sua patria, in casa sua». Nella prima lettera ai Corinzi, se i fratelli del Signore erano tali in senso spirituale, perché distinguerli dagli apostoli e da Pietro, i quali erano a loro volta fratelli in senso spirituale, Matteo ricorda che Giuseppe non ebbe con lei rapporti coniugali, cioè sessuali, finché ella non ebbe partorito un figlio. L'Evangelista Luca, considerando molto naturalmente la nascita di Gesù, afferma che Maria diede alla luce il suo figlio primogenito. Tutte le persone che non sono condizionate da preconcetti comprendono che la parola primogenito significa il primo essere nato. Se Gesù fosse stato il solo figlio di Maria, Luca lo avrebbe chiamato unigenito. Infatti questo nome è dato a Gesù per ciò che riguarda il suo rapporto con Dio, Giovanni 1,14, 1 Giovanni 4,9. Giovanni cita un salmo che si riferisce profeticamente a Gesù. Se leggiamo il contesto, vi troviamo anche preannunciati i figli di sua madre. Giovanni 2,17 con Salmo 69, 7-8. La mia opinione personale è che la religione cattolica non possa che arrampicarsi sui vetri per sostenere la verginità perpetua di Maria. Maria ebbe il bellissimo dono, vanto di ogni donna ebrea, di avere molti figli, e la scrittura si preoccupa anche di riportarne i nomi. I dogmi intorno a Maria non sono certamente sottoposti alla luce dell'autorità della scrittura. Anzi, essi vogliono passarle al di sopra negando quanto essa affermi. Matteo 16,13-19, l'autorità del Papa. Poi Gesù, giunto dalle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «Chi dicono gli uomini che io, il figlio dell'uomo, sia?» Ed essi dissero: «Alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti». Egli disse loro: «E voi chi dite che io sia?» E Simon Pietro, rispondendo, disse: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù rispondendo gli disse: «Tu sei beato, o Simone, figlio di Giona, perché nella carne e nel sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ed io altresì ti dico che tu sei Pietro, e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Ed io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli». Cristo istituì i dodici minore sotto la forma di un collegio o di un gruppo stabile, del quale mise a capo Pietro, scelto in mezzo a loro maggiore del solo Simone, al quale diede il nome di Pietro. Il Signore ha fatto la pietra della sua chiesa. Il Papa, vescovo di Roma e successore di San Pietro, in virtù del suo ufficio di vicario di Cristo e di pastore di tutta la Chiesa, ha sulla Chiesa la potestà piena, suprema e universale, che può sempre esercitare liberamente. 880-881, 882. Sulla questione che Pietro fosse il primo Papa, lo rifletteremo più avanti. Ecco come la religione cattolica romana è arrivata ad attribuirsi un potere temporale e assoluto sulla cristianità. Un grado, Cristo è la verità, due gradi, istituì i dodici tre gradi. Tra di loro scelse Pietro come capo e fondamento della sua chiesa, quattro gradi. I suoi successori, insieme al corpo episcopale, cinque gradi, sono infallibili in materia di fede, 891, sei gradi. Nel proporre un dogma, sette gradi. Obbliga il popolo cristiano a un'irrevocabile adesione di fede, 88, o a tali definizioni si deve aderire con l'ossequio della fede. 891. La supremazia del cattolicesimo romano, quindi, è il vertice di una costruzione di pensiero. Ma, come in una catena, se un anello di questa costruzione è mancante, tutto il resto non regge. Che Gesù sia la verità e abbia istituito i dodici è vero. Ma che Pietro sia la pietra della Chiesa è un'interpretazione che biblicamente non regge, e di conseguenza non vi sono successori. Il corpo episcopale non è infallibile in materia di fede, né nel proporre un dogma, e il cristiano non è tenuto a un'irrevocabile adesione di fede. Il vescovo di Roma non ha potestà sulla cristianità. Al massimo, come tutti i vescovi, sulla Chiesa alla quale appartiene. Inoltre, Paolo ha sempre dichiarato nelle sue lettere che il capo della Chiesa era Cristo, e questo quando Pietro era ancora vivo. Non vi è nessuna indicazione, sia nei Vangeli sia nelle lettere, che Pietro fosse il capo della cristianità.